Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Già le 8:04, ma dai, siamo puntuali per la rassegna stampa culturale dei magazine allegati ai principali quotidiani usciti nel weekend. In questa estate poi la lettura dei magazine è oltre che consigliata per avere motivo di conoscenza in non solo relazione alla Breakfast Club nelle rubriche fra teatro, arte e letteratura e anche sport per qualche approfondimento soprattutto su Alias del Manifesto in uscita al sabato per quanto riguarda la storicità nello sport e negli eventi sportivi, ma come vi ho detto aggiungono sicuramente un valore di approfondimento che nelle notizie consuete dalla carta stampata purtroppo tra la rete e l'informazione mordi e fuggi è un po' latitante, questo approfondimento che invece è presente nei magazine. Iniziamo dalla domenica, e sì, la domenica è giornata di lettura particolare, anche se l'approfondimento in prima pagina è dal Sole 24 Ore, ma troveremo anche la lettura del Corriere della Sera. Abbiamo quest'insieme di letteratura ed arte, come vi ho detto, con questa immagine che da subito mi ha incuriosito. È un'opera d'arte, ma io vedo un bullone con tanto di dado, cupiglia. La cupiglia è quella specie di forcella che ferma lo eventuale svitamento dell'oggetto in questione. È veramente qualcosa che riporta più a un'officina di un fabbro, se vogliamo, più in contemporanea di un meccanico, di un congegnatore meccanico, e invece era una pubblicazione dal 1927. Sarà De Pero il futurista che riporta il bullone numero uno, e che c'entra la letteratura? Era una raccolta poetica racchiusa appunto con quattro bulloni che agli angoli della pubblicazione stessa in copertina di alluminio o legno teneva ferma le pagine con questo metodo, se vogliamo, che portava poi un lavoro manuale o che portava qualcosa di, anche se in maniera elementare, meccanico, il lettore per avere conoscenza del contenuto, è qualcosa che ovviamente ai futuristi piace tantissimo. È stato dal 1927, non dico smarrito, dimenticato, non è stata più considerata per motivi che vi dirò, una delle opere così importanti. Perché? Perché il costo, volevano pubblicarne non so quante copie, ma il costo anche solo di manodopera oltre che di materiale era veramente importante, quindi ve n'è una tiratura limitata. Il numero uno è stato ritrovato, e sapete dove? Alle biblioteche vaticane, scoperte in archivio grazie a una recente ricerca, è riemerso in fondo di libri futuristi nella Biblioteca dei Pontefici, che contiene addirittura il primo esemplare della tiratura del mitico imbullonato di De Pero. Qui ve ne è l'immagine, e come vi ho detto pare più il laboratorio, uno spaccato di un laboratorio di un fabbro o di un congegnatore meccanico. In realtà all'interno vi è questa raccolta di poesie futuriste che De Pero voleva contenere in questo modo, per mettere insieme sia manualità che meccanica per accedere poi alla poesia. Tutto ciò ovviamente appartiene molto alla cultura futurista. L'immagine quanto mai suggestiva ripresa in prima pagina della domenica del Sole 24 Ore ha attirato subito la mia attenzione. Nel 1927 è stata pubblicata la prima di questa tiratura limitata, tutti contenti contenti, ne facciamo in modo di avere ristampe ed altre pubblicazioni, si sono resi conto che fra manodopera e materiale, ovviamente il costo molto elevato, hanno fermato tutto, ma allo stesso tempo resta comunque l'idea certamente futurista e particolare di mettere insieme queste sensazioni meccaniche e la poesia. È l'apertura dei nostri magazine che fra arte e letteratura danno il via alla rassegna stampa culturale, e infatti resteremo in tema letterario portando tra poco uno dei più grandi di tutti i tempi, per me il numero uno nella spy story, quindi avremo già, ve lo anticipo, il grandissimo Graham Greene. E per quanto riguarda la Sellerio, che manda in biblioteca un altro, in libreria scusate, un altro lavoro del fantastico, secondo me, Graham Greene. Allora, il premio lo vorrei dare con alcuni indizi. È un libro, il titolo me lo darete voi. Comincio col primo indizio. È una pubblicazione a Delphi. Bah, e allora, andiamo piano piano, poi alla volta. State in frequenza e mi raccomando, 333-180-9494. Futurista al poeta del ritmo, anzi i poeti del ritmo che stiamo ancora ascoltando dal disco Practice What You Preach, metti in pratica quel che vai predicando, il primo brano More Mess on My Thing, stiamo ancora ascoltando queste note. Pubblicazione a Delphi, la riscoperta di un'autrice americana, e a me le riscoperte tra 800 e 900 sono grande motivo di ricerca, di curiosità. Secondo indizio, è una scrittrice americana. 333-180-9494, è ancora presto ovviamente per la risposta, immagino che anche Andrea ha messo in difficoltà il nostro super campione, dovete indovinare unicamente il titolo. E e dalla edizione della domenica del manifesto, quella un pochettino più seriosa e anche più, se vogliamo, legata alla letteratura e all'arte, mentre la edizione del sabato, sempre del manifesto di Alias, è più vicina al cinema, agli appuntamenti musicali e anche, come ho detto in precedenza in apertura, all'aspetto, seppur in maniera alternativa, dello sport. Vi ho parlato di un grande Graham Greene, scrittore che per me è un gigante della letteratura a tutti i tempi. Graham Greene per il Novecento Britannico a pagina 8 di Alias, edizione domenicale. Consiglio, anzi obbligo, la lettura del nostro contatto, il nostro agente all'Havana e Il terzo uomo. Per me sono i due lavori di Graham Greene veramente dai quali iniziare la lettura di questo Di lui leggete tutto. Sellerio ritraduce Brighton Rock, 1938, romanzo di Graham Greene, tragicomico, esatto. L'ho identificato come spy story, ma aggiungo che Graham Greene ha una fortissima ironia. Tragicomico e implausibile, ma resiste oggi il fascino della sua, tra virgolette, demenza, tutta intrisa di un cattolicesimo blasfemo. Cattolicesimo blasfemo, perdonate, a me piace tantissimo. È fervente. Infatti lui, anche lui, anche lui credente e a modo suo, insomma, quindi cattolicesimo blasfemo direi che si definisce perfettamente. Il grottesco prevale sul bene, scene da un matrimonio. Qui, per quanto riguarda Sellerio, il consiglio che arriva, io sono un completista di Graham Greene, questo è un lavoro da avere, magari lo porteremo anche al Voltiamo Pagina di Gennaro Serio a pagina 8, l'approfondimento per il Novecento britannico. Allora aggiungiamo un altro indizio primo dello stacco musicale bellissimo con la voce di Arto Lindsay per Jun Miyake. Un altro indizio che posso dire oltretutto, beh, protagonisti fratello e sorella che vivono in maniera simbiotica. A un certo punto arriva un inquietante, seppur sempre stagione, che è la più bella in assoluto, che è l'estate. Loro devono spostarsi dalla città alla campagna in Colorado, affronteranno motivi, seppur sempre restando uniti, di divergenza nella crescita, e questi due protagonisti si dovranno confrontare col resto di una famiglia, diciamo, borghese e anche molto stereotipata. Beh, ho dato anche qualche indizio per quanto riguarda la trama. Il libro è poi riportato anche dalla lettura del Corriere della Sera, magari lo prendiamo dopo lo stacco musicale con Arto Lindsay. 333-180-9494, a tra poco. Cheguei, abri o jogo e assim desfiz o ângulo que tive. Chutei sem ver, desfeito pelo vento e outros ventos. Depois driblei sem bola, porém também sem ter surpresa. Me atrapalhei com tanta E torniamo in diretta, finisce così appena in tempo per trovare l'articolo a pagina 12, 333-180-9494, pagina 12 della lettura del Corriere della Sera. Vediamo se riuscite a sentire anche voi questa base estiva naturale. Sì, sono le mie amate cicale. Lo so che alcuni di voi sono motivo di disturbo. Ho voluto tenere apposta la finestra aperta, nonostante a me piaccia l'afa e quel caldo umido. Anche qui sono abbastanza atipico. Infatti questa è un'estate abbastanza tiepida, se vogliamo, finora. Comunque la presenza delle cicale per me è qualcosa di tutti i tempi, la colonna sonora naturale dell'estate. Allora Sergio scrive, mi dà una grossa mano in co-conduzione americana, punto di domanda, sarà Ether Parisi, il titolo è Cicale, ci ho preso? No, non hai indovinato, anche se il titolo non dico che ha delle attinenze con il titolo che hai portato sul lavoro di Ether Parisi. Dai, comunque avremo modo di dare altri indizi. Il libro è molto bello. Perché un libro e un romanzo per questi magazine di solito saggi, anche se veramente il saggio che presenterò a breve, solo che non sono riuscito a recuperarlo per portarlo in palio a questa puntata dei magazine. Mentre invece il lavoro di Jean Stafford, che vinse il Pulitzer nel 1970, autrice che ha vinto il Pulitzer non con questo lavoro, ma con una raccolta di racconti. Lei risponde il nome di Jean Stafford. Un indizio in più, ok? Ne ho date alcune informazioni per quanto riguarda la stesura, lo svolgimento del romanzo, infatti con una sintesi Cristina Taglietti dalla lettura del Corriere della Sera aggiunge: l'inferno è diventare grandi per questi due fratelli che vivono in maniera simbiotica i cambiamenti e le relazioni con la famiglia, vedono questi due protagonisti in uno spostamento, in un cambio di residenza, in un cambio di stagione nella piena estate di inizio Novecento, e appunto come vi ho detto come si svilupperanno questi rapporti sia interni che esterni, perché ovviamente in questo panorama troviamo anche personaggi di contorno. È un lavoro molto bello, ho letto molto questo weekend e addirittura per il Voltiamo Pagina, essendo in questa puntata senza Silvia Albertazzi, avremo modo, ho selezionato altri due lavori che porterò per la rubrica letteraria, e per i magazine un terzo romanzo che è appunto questo. Lei è Jean Stafford. L'inferno è diventare grandi, il titolo me lo dovete dire voi. Il saggio in questione, che invece doveva arrivare per la settimana che parte nella giornata odierna lunedì 3 luglio, come ho detto, purtroppo non sono riuscito a recuperarlo, però posso raccontarvi qualcosa dal consiglio che è arrivato da Tutto Libri della Stampa con la prestigiosa Scuola di Francoforte, grandissimi intellettuali tra cui Theodor Adorno e tanti altri. Beh, conoscete la storia della Scuola di Francoforte? E tra poco sui 103.1 di Radio Città Fulgico, prima dello stacco pubblicitario, e avrete modo durante la pubblicità, perché darò un indizio che appunto svelerà quest'arcano definitivamente. Questa è una battucada che poi svolta in elettronica 4/4, che è impossibile trovarne modo di resistere. È un buon ascolto, tra poco. Se io già ne sei. Thank you. Baccana, brano Resa, e ora veramente una bomba. Californiana Ubiquity, questo secondo volume di Rewind, come abbiamo ascoltato in precedenza, Curtis Mayfield in apertura con People Get Ready, rielaborato da Roy Davis Jr. Ora stiamo ascoltando questa batucada sempre tratta dalla prestigiosa label californiana. La bella vita dei filosofi di Francoforte, lo troviamo a pagina 18 della Stampa per la saggistica, è una biografia collettiva di un movimento, infatti il laboratorio del pensiero critico. Chi erano questi filosofi? Grandissimi intellettuali. La bella vita dei filosofi di Francoforte che volevano fare la rivoluzione con vista oceano. Forse sono stati i primi ad essere criticati come radicali. Chic, erano benestanti di nascita, colti, elitari, studiosi del marxismo e oppositori tenaci di ogni forma di fascismo. Una storia della scuola che voleva cambiare il Novecento con attacchi troppo veementi alla cultura di massa. Il grande Lukács, filosofo veramente illuminato, lui li sbeffeggiava per l'insanabile distanza tra teoria e prassi. Durante il 68 le studentesse li contestavano a seno nudo, e anche per quello che della scuola di Francoforte non dico se ne sappia poco, però è stato un movimento, è stato un cartellone che ha visto, per così dire, anche grandi motivi di critica proprio per la distanza definita da Lukács tra teoria e la prassi, che nella critica marxista insomma è una parte molto importante. È un lavoro che si intitola Grand Hotel Abisso di Stuart Jeffries, edizioni editi. È molto, diciamo, curioso trovare approfondimento per queste scuole di pensiero e di filosofia che hanno veramente fatto la storia del Novecento, e poi approfondimenti per quanto riguarda la Terza Internazionale, per il Comintern, e anche una storia di spionaggio culturale, se vogliamo, nell'incipit di questo articolo. La spia più formidabile della storia, così Ian Fleming, creatore di James Bond, definì Richard Sorge, ufficiale subalterno del Comintern, sapete, no, che è il comitato della Terza Internazionale, inviato in Germania nel 1921, non aveva certo licenza di uccidere, ma aveva un accesso privilegiato alla biblioteca dell'Istituto per la Ricerca Sociale di Francoforte, quindi il mondo dell'intelligenza culturale e dell'approfondimento filosofico. Quando si ruppe la seconda internazionale per lo scoppio della prima guerra mondiale, in quanto alcuni partiti o movimenti socialisti socialdemocratici, sia francesi che tedeschi, si dichiararono interventisti, è da lì che nacque il socialismo riformista e il socialismo rivoluzionario, che è riportato proprio in questo saggio. Per saperne di più anche della storia, per per quanto riguarda la politica fino ai giorni nostri, per cui il lavoro portato da Tutto Libri della Stampa, consigliatissimo, quando ne avrò la possibilità vedrò bene di leggerlo, Grand Hotel Abisso di Stuart Jeffries, EDT Edizioni. Fu anche il passaggio da Parigi a Mosca, il Comintern poi a Mosca diventò un punto di riferimento importante per tutti i partiti comunisti in maniera trasversale. Insomma, come vi ho detto, notizie, nozioni, motivi di approfondimento interessanti sui magazine e tant'è. Per quello che riguarda il nostro libro, ok, svelo, non dico che do la soluzione, ma se può passare questo aereo che mi costringe ad avvicinare la finestra, darò due indizi che durante la pubblicità sarà un motivo di velocità per scrivere al 333-180-9494, più che, diciamo così, di difficoltà. Ecco, allora, scrittrice americana, Edizioni Adelphi, Joan Stafford, il lavoro della vincitrice del premio Pulitzer del 1970, riporta un titolo. È un titolo che è un animale e è anche una grandissima azienda di articoli sportivi. È una grandissima azienda di articoli sportivi ed è un animale. 333-180-9494. A voi ovviamente la risposta per avere questo titolo che scriverete voi. Io attendo, ascoltiamo un po' di musica, andiamo in pubblicità e poi si torna in diretta. Grande azienda di articoli sportivi, per me molto diffusa nel calcio, è così, mi viene da dire, ma non solo. Ed è un animale. Qual è? A tra poco. Oh darling, I see you go through your changes, sitting alone each night. Are you expecting to find the love? Ooh, love, that's right. Well darling, open your eyes and let me show you the light. Girl, you'll darling, open your eyes and let me show you the light. Oh, you think you're so wise. There are times when you need someone, I will be by your side. I take my chances before they pass, pass me by. Darling, open your eyes and let me show you the light. Girl, you'll never find a love that's right. Well, darling, open your eyes and let me show you the light. You may never find a love that's right. Well, darling, open your eyes and let me show you. Right. summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy's rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings. Nel punteggio, Fantozzi incontrò di nuovo lo sguardo di sua moglie. Mi perdono un attimo? Vorrei fare un tiro io adesso. Segni! Non tre punti, 11! Oh, mi scusi! Paglianazzo! Ecco! E adesso rinterzo ad effetto con grillo centrale. 5. Lei tiri su. E lei segni. Calcio a 5 sponde e 11 punti. Colpo partita. Triplo pilotto reale ritornato con pallino. Ragionier Fantozzi, 51, direttore Conte Catellani, 49. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Perché questo rientro? Perché si parlava di grandi intellettuali, no? E per quanto riguarda il Novecento, per me uno su tutti che è scomparso il 3 luglio del 2017. Il 3 luglio del 2017 scompariva Paolo Villaggio. Ho voluto riportare con uno spaccato di rivincita, di riscossa per questa partita a biliardo dove lui, vessato e umiliato davanti alla moglie a motivo di rivincita, e sulle note del Wachu Wari Wari ha portato un risultato clamoroso contro il direttore Catellani nella mitica partita a biliardo. Grandissimo capolavoro tutti i tempi. Dopo questo ricordo che rimane ovviamente imperituro, è il momento della consegna e della risposta. Ovviamente la risposta è il Puma, ma la Puma in questo caso, ma non perché nella specificità dell'azienda di articoli sportivi, ma perché è un Puma femmina che nella campagna del Colorado troverà motivo di visita. A questa ragazza coprotagonista insieme al fratello del lavoro di Jean Stafford, che in fondo poi porta un titolo al maschile, il Puma, ma nella narrazione ovviamente la Puma, per dire in maniera più precisa. Iniziamo allora dai partecipanti, ringraziando Luigi, che saluto. Buongiorno Luigi, grazie per aver giocato con noi rispondendo in maniera perfetta, ma non sei stato il primo. E neanche Lino, Puma? Punto di domanda. Certo, se è la Puma, viene fondata da uno dei fratelli Dassler che, litigando con l'altro, se ne va dall'azienda di famiglia Adidas fondando la propria, la Puma, appunto. Grazie Lino, coltissimo anche con queste notizie e curiosità. La dolce Cristina, ciao Cristina, buongiorno, dice, beh, così è facilissimo, Puma, ma lo scrivo per il gusto di partecipare. Grazie Cristina, io ho vinto già altre volte, nel caso lascio spazio ad altri. Sei arrivata seconda, quindi, però complimenti, un bel piazzamento d'onore. Grazie Cristina, buona giornata. Never no more to call your name. Deciso, minimale, sintetico, è Dino dalla Bolognina. Il Puma, sì, il titolo esattamente è Il Puma, quindi hai risposto per primo, hai il premio, ti chiamerò a breve per il ritiro, è il lavoro di John Stafford, edizione Adelphi, premio Pulitzer nel 1970, viene riportato in biblioteca nelle autrici da riscoprire con questo lavoro che ho iniziato a leggere e che è la letteratura tra 800 e 900 che per me è sempre motivo di grande curiosità e riscoperta. Mi auguro tanto piaccia anche a te. Il Puma, John Stafford, edizione Adelphi, lo porta in biblioteca Città Fujiko il nostro Dino dalla Bolognina. Lascio con questa calda voce, la teniamo come base, lei è Shirley Horn. Contento Dino, bene. Quanto riguarda il contrabbasso, Mr. Ron Carter. Felina e calda, a proposito, lei è Shirley Horn, I Remember Miles, per edizioni Verve Record. Thank you. è il momento dei saluti. No, ricordo Grand Hotel Abisso, questo saggio che non sono riuscito a recuperare, forse l'hanno solo anticipato, deve ancora uscire, di Stuart Jeffries, per avere un riferimento anche su un motivo di nascita tra socialismo riformista e socialismo rivoluzionario, in quanto allo scoppio della Prima Guerra Mondiale nei movimenti e partiti socialdemocratici tra Francia e Germania, alcuni di questi si schierarono come interventisti. Vi ricorda qualcosa? No, guardate che la storia è... Every hour in the day. Questa spaccatura diede il via alla Terza Internazionale e al Comintern, di cui approfondimento all'interno di questo lavoro, con una biografia collettiva sul laboratorio del pensiero critico e i filosofi di Francoforte. E con loro chiudiamo la nostra rassegna culturale dei 103.1, ringraziandovi tanto per, oltre che la partecipazione al quiz, Dino della Bolognina ne è uscito vincitore. Buona lettura, Dino, con tutti i libri che hai vinto avrai un motivo in più, no? Con questa riscoperta da Adelphi, per avere una buona estate in compagnia della bella letteratura di Radio Città Fusico, tra Magazine e Voltiamo Pagina. A breve avremo Liberi Dentro, salutiamo nuovamente i ragazzi dell'Edipeo Enciclopedico che per stagione 2022-2023 sono arrivati al termine. Domani il Mood Groove, ok Lino? Attenzione, domani magari dai una mano in co-conduzione al 333-180-9494 sia al sottoscritto che a Paolo Onofri, perché domani, siccome diamo approfondimento alla squadra, o meglio franchigia campione della NBA, i Denver Nuggets, di cui abbiamo già ampiamente parlato, domani tocca l'Italia con l'Olimpia a Milano, lo faremo con Sguardo NBA. I grandi stranieri dell'Olimpia a Milano, io arrivo fino alle epoche protagonista del Mood Groove, lo so di certo che ve ne sono stati tantissimi sia prima che dopo, ma avremo una particolarità nell'epoca protagonista del Mood Groove e non solo. Insomma, l'anticipazione per domani è questa, e dopo la giornata odierna, in conclusione al Breakfast Club, seguendo con Liberi Dentro, rientrando con la rassegna stampa di Radio Città Fusico dalle 9.30 alle 10.30. Per oggi a colazione è veramente tutto. Grazie per l'attenzione, un caloroso abbraccio dal vostro William Piana e un buon ascolto sulle frequenze dei 103.1. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani e un buon lunedì.